Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il taglio dei parlamentari è sempre stata una priorità per il Movimento 5 Stelle e uno dei motivi per cui 11 milioni di italiani ci hanno dato fiducia mandandoci al governo. Per questo noi, anche in caso di referendum, siamo sicuri che saranno ancora al nostro fianco. A parlare, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle a proposito del taglio dei parlamentari. Sapete che su questo è stata approvata una legge, una riforma costituzionale qualche mese fa, però adesso c'è il referendum che vuole bloccare questo taglio dei parlamentari. Ieri improvvisamente sembrava che il referendum non si potesse fare, mancavano improvvisamente delle firme, qualcuno si era sfilato, invece oggi c'è una sovrabbondanza di firme, tra queste anche di alcuni leghisti che però avevano votato per il taglio dei parlamentari. Quindi ancora caos su questo tema, di cui ci occuperemo tra i temi politici della giornata, così come anche del malessere dentro il Movimento 5 Stelle. È o non è in bilico la leadership di Di Maio? Ne parleremo, così come ci occuperemo anche della vicenda dell'aereo ucraino precipitato in Iran. Adesso è una ridda di accuse nei confronti dell'Iran. Cerchiamo di capire se effettivamente può essere successo, ancora non ci sono prove, che dei missili iraniani per sbaglio abbiano colpito questo aereo con 176 persone a bordo, se le accuse di Stati Uniti, di Gran Bretagna, del Canada e anche della NATO siano effettive, oppure se sia una questione strumentale per attaccare ulteriormente in questi giorni di crisi internazionale l'Iran. Quindi ne parleremo con un esperto. Poi sapete, il venerdì l'unica certezza di tutta la settimana è il meteo con il nostro meteorologo di fiducia. Per i vostri commenti e riflessioni c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure potete inviare SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Allacciate le cinture che si parte. Taglio dei parlamentari, raggiunte le firme per il referendum teso a bloccare il taglio. I 5 Stelle accusano i leghisti di essere incollati alle poltrone. Intanto il malessere nel Movimento 5 Stelle genera un pressante dibattito sulla leadership. Crisi internazionali, Libia e Iran al centro del vertice dei ministri dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro Teheran. L'aereo ucraino precipitato in Iran. La NATO crede al missile iraniano come causa del disastro. L'Iran nega responsabilità e invita gli esperti ucraini e quelli della Boeing a indagare. Viadotti sulle autostrade, 200 gallerie non rispettano le norme di legge, ma la ministra De Micheli rassicura. Olimpiadi invernali 2026, spunta l'ipotesi di una rete di funivie sulle Dolomiti, immancabili le polemiche. Partiamo quindi dalla politica italiana, dai temi interni che ricominciano ad agitare il dibattito tra i partiti. È stato raggiunto oggi, anzi superato, il numero minimo di firme di senatori per presentare il quesito contro il taglio dei parlamentari. I promotori ne hanno depositate 71 in Cassazione. Un appoggio sostanzioso sarebbe arrivato anche dai senatori della Lega. Dura la reazione dei 5 Stelle, che attaccano il carroccio e dicono sono incollati alle poltrone. 5 Stelle che però intanto sono alle prese con le polemiche interne sulla leadership di Di Maio. Alla fine 71 senatori ce la fanno e depositano in Cassazione le firme per il referendum sul taglio dei parlamentari, 7 in più delle 64 necessarie. I promotori, tra cui Andrea Cangini di Forza Italia, respingono le critiche. Me ne infischio delle possibili conseguenze che questo referendum potrebbe avere sul quadro politico. Mi interessa invece che si possa svolgere nel Paese quel dibattito appunto sulla democrazia, non sulle poltrone, sulla democrazia. A soccorrere 12 new entry, 5 di Forza Italia, vicino a Silvio Berlusconi, uno di LeU e soprattutto 6 della Lega, che aveva votato a favore del taglio. A rinunciare invece 4 di Forza Italia legati a Mara Carfagna, che giudica il referendum un quesito salva poltrone, Mario Giarrusso dei 5 Stelle perché la sua posizione era stata strumentalizzata, idem Francesco Verducci e Vincenzo D'Arienzo grazie alla nuova proposta di legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5%. I radicali non ce la fanno e raccolgono appena 669 firme contro le 500.000 necessarie. Ma il referendum potrebbe anche avvicinare le urne per far eleggere 1.000 parlamentari invece di 600 con la vecchia legge. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I 5 Stelle vanno all'attacco degli ex alleati della Lega dopo il loro sostegno alla raccolta di firme per il referendum sul taglio dei parlamentari. Non hanno resistito alla voglia di tenersi strette le poltrone, incalzano i pentastellati che provano a ricompattarsi attorno ad uno dei loro cavalli di battaglia. Dopo le ultime fuoriuscite, nel movimento le acque restano però quanto mai agitate e cresce il malcontento attorno al doppio incarico di Di Maio, il cui staff intanto smentisce in retroscena, secondo i quali il ministro degli esteri sarebbe sul punto di rinunciare al suo ruolo di capo politico. Al suo fianco nelle ultime ore si sono schierati esponenti di primo piano come Fraccaro e Di Stefano. Il team del futuro, nel frattempo, avrebbe fissato la data degli stati generali pentastellati sui quali Di Maio punta per rilanciare il movimento, che dovrebbero tenersi dal 13 al 15 marzo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo al caso della nave Gregoretti. Matteo Salvini, che è indagato per sequestro di persona per aver tenuto 5 giorni al largo questa nave della Marina Militare con diversi migranti a bordo, oggi ha detto: stiamo pensando a una mobilitazione nazionale, che io rischio un processo per sequestro di persona per avere difeso i confini. Dice: la sicurezza e l'onore del paese è indegno di un paese civile. E su tutti questi temi di politica ci sarà poi modo e spazio di tornare. Ed è ancora aperto nel frattempo il dibattito politico sul capitolo autostrade, un tema, quello che divide la maggioranza. Si rincorrono intanto allarmi e smentite sulla sicurezza delle infrastrutture. Italia in ritardo sulla sicurezza delle gallerie stradali. Il 69% dei tunnel più lunghi di 500 metri non si è ancora adeguato agli standard fissati dalla direttiva europea del 2004 e il 10 ottobre scorso la Commissione ha aperto una procedura di infrazione a carico del nostro paese, insieme a Belgio, Bulgaria, Croazia e Spagna. Secondo un report del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le gallerie ancora fuori norma sono 200, di cui 105 di Autostrade per l'Italia e 24 dell'ANAS. Il report è stato acquisito dalla Procura di Genova, che indaga sul crollo del 30 dicembre nella galleria Bertè sulla Genova-Gravellona, compresa nell'elenco. Autostrade fa sapere che i lavori sono in corso sul 90% dei tunnel ancora fuori norma e comunque, secondo i concessionari, non è vero che ci sono 200 gallerie a rischio, perché gli interventi da realizzare non riguardano la sicurezza statica ma solo aspetti come illuminazione e antincendio. Diversa però la posizione dell'ex presidente del Consiglio Superiore Donato Carlea, autore del report di novembre. È l'intera galleria che deve essere messa in sicurezza, non solo la parte impiantistica, ma anche le parti strutturali. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E praticamente in serata è intervenuta anche la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, De Micheli, che ha detto: non c'è un rischio, ma un'attività di adeguamento ad alcune norme obbligatorie. È un'attività, ha detto, comunque in ritardo, ma che garantisce la sicurezza dentro le gallerie. Parliamo di produzione industriale, che resta negativa su base annua ed è il motivo per cui dobbiamo reagire. Questo è il commento del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della firma dell'accordo con Confimprese a Milano. L'economia deve restare al centro delle discussioni del governo, ha spiegato Boccia. Restano aperti tanti nodi, dobbiamo chiaramente affrontarli, ma andare anche oltre l'emergenza. Non possiamo parlare ogni giorno solo dell'emergenza, ma guardare al futuro del paese in un piano di medio termine. La nostra idea è molto chiara, l'abbiamo sottolineata da tempo, speriamo che in questo tagliando che il governo intende fare in gennaio si affrontino questi fini nell'interesse del paese e che la questione economica sia prevalente per risolvere anche le grandi questioni politiche del paese. Per quanto riguarda le banche, entro metà anno ci sarà la ristrutturazione della Banca Popolare di Bari, così ha detto il ministro dell'Economia Gualtieri in audizione, sottolineando come il progetto di rilancio della Popolare debba essere robusto e credibile a parte della trasformazione della banca in società per azioni, con la copertura delle perdite che emergeranno. La nuova Banca Popolare di Bari, dopo il salvataggio e il rilancio, ha garantito il titolare del Ministero dell'Economia e Finanze, avrà un ruolo centrale per il finanziamento dell'economia del Mezzogiorno. In sicurezza i depositanti. Per i depositanti non si prevedono impatti, come ho detto, sono lieto anzi che dare questo messaggio, che è stato messo in sicurezza, sono stati messi in sicurezza i depositanti, i detentori titolo di debito, comprese quelle subordinate. Passiamo adesso alle notizie dall'estero. Libia e Iran sono al centro del vertice straordinario dei ministri dell'Unione Europea, voluto dall'alto rappresentante della politica estera europea Borrell, mentre gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni nei confronti di Teheran. Poi vedremo che cosa emerge al termine di questo vertice straordinario. Intanto in Iraq migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Baghdad e in altre città irachene, innalzando cartelli e scandendo slogan contro gli Stati Uniti e l'Iran, accusati di far piombare il paese nel caos. Già da giorni erano apparsi sui social appelli a rilanciare il movimento che in ottobre aveva violentemente protestato contro la disoccupazione, la mancanza di servizi e la corruzione. La notte scorsa violenti scontri tra dimostranti e forze dell'ordine si sono verificati a Kerbala, nel sud del paese, e a Bassora c'erano stati numerosi arresti. Per quanto riguarda l'aereo ucraino precipitato nei giorni scorsi in Iran con 176 persone a bordo, tutte morte, l'Iran nega le accuse americane secondo cui il Boeing sarebbe stato abbattuto per errore da un razzo iraniano, tesi sostenuta anche dalla NATO, dal Canada, dal Regno Unito, e invita gli esperti, l'Iran invita gli esperti della Boeing ad indagare insieme, e così anche per gli esperti dell'Ucraina. L'Unione Europea chiede un'inchiesta indipendente mentre Mosca aspetta le prove. Di tutto questo parleremo con un esperto. E poi il Pakistan, l'ISIS ha rivendicato l'attentato di questa mattina in una moschea di Quetta in Pakistan, che secondo le autorità locali ha causato 15 morti e 19 feriti. In un post sui social l'ISIS riferisce che si è trattato di un attacco suicida, che il kamikaze avrebbe ucciso 20 persone e ferito 40 altre persone. Ed è stato identificato dalle autorità ivoriane il ragazzino trovato morto nel vano del carrello di un aereo proveniente da Abidjan e atterrato a Parigi. Si tratta di Ani Guibai Laurent Barthélemy, nato il 5 febbraio 2005, vicino a Abidjan, un alunno di quarta classe la cui identità è stata confermata dai genitori. Di nuovo sulle notizie italiane, con la cronaca e la vicenda del 2012 delle firme false a Palermo a sostegno del Movimento 5 Stelle. 12 condannati, tra cui anche gli ex deputati Nuti, Mannino e Di Vita, e 2 assolti con pene comprese tra un anno e 10 mesi. Tutto accadde la sera del 3 aprile 2012 al comitato elettorale del capoluogo siciliano del Movimento 5 Stelle. Si era in piena campagna elettorale per le amministrative, mancavano solo 3 giorni alla scadenza per la presentazione delle liste. Ci si accorse di un errore banale su un luogo di nascita di un sottoscritto, un vizio che, vista l'impossibilità di ricominciare la raccolta, avrebbe rischiato di far saltare tutto. Per rimediare, in una notte convulsa furono ricopiate migliaia di firme, falsificate migliaia di sottoscrizioni, e il cancelliere avrebbe dichiarato il falso. Tutto sarebbe avvenuto, secondo l'accusa, su input di Riccardo Nuti, che all'epoca era candidato sindaco. La pentastellata Claudia La Rocca fu una delle prime ad ammettere. Disse che non ci fu alcuna volontà di commettere un falso ai danni dei sostenitori. Eravamo inesperti, nessuno pensò che potesse essere una cosa tanto grave. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E adesso a Foggia, dove in tanti hanno risposto all'appello dell'associazione Libera dopo il susseguirsi di violenze, a partecipare anche la ministra Bellanova e il governatore Emiliano. È la terra della spietata quarta mafia. Qui, in questi pochi giorni dall'inizio dell'anno, bombe sono esplose sotto le auto davanti alle saracinesche, e qui un commerciante è stato ucciso in strada. Qui ora a Foggia in 8.000 hanno sfilato insieme all'associazione Libera per disinnescare la miccia della paura, dice Don Luigi Ciotti. Foggia libera Foggia, vuol dire che tocca ai foggiani liberare la città da una presenza dell'illegalità, della corruzione, ma anche la responsabilità di tutti noi. A lungo questa quarta mafia, rimasta nelle cronache locali con i suoi crimini, ha beneficiato del silenzio e dell'indifferenza, imponendo sull'intera area del Foggiano le sue regole e la paura. Ora, per la prima volta, è la gente a scendere in piazza, perché la lotta alla mafia, come ricorda il premier Conte, non ha bandiere né colori politici. Una grande risposta per un appello lanciato domenica scorsa. Più legalità. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di autismo, perché un bambino su 4 di età inferiore agli 8 anni, uno su 4 con disturbo dello spettro autistico, non viene diagnosticato, vedendo così ridurre la possibilità di migliorare la qualità della vita. A indicarlo sono i risultati pubblicati sulla rivista Autism Research, che mostrano come, nonostante la crescente consapevolezza, questa condizione sia ancora ampiamente sottodiagnosticata. La ricerca è stata condotta attraverso l'Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, un programma di sorveglianza finanziaria finanziato dai centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Nello studio la maggior parte dei bambini non diagnosticati era di origine africana o sudamericana, avevano deficit di capacità mentali, di abilità sociali e nelle attività della vita quotidiana. Lo screening di tutti i bambini piccoli in età prescolare e scolare, concludono i ricercatori, potrebbe aiutare a ridurre le disparità nella diagnosi. Per chiudere parliamo di sport, delle Olimpiadi invernali del 2026. Cortina Milano, potrebbe arrivare la rete delle funivie delle Dolomiti. Se l'idea passerà, nessun altro comprensorio del pianeta potrà offrire un'esperienza analoga. Tutte le Dolomiti in seggiovia o sugli sci, senza trasferirsi da un posto all'altro con la macchina o il pullman. Per l'industria turistica e gli sciatori è un sogno, per gli ambientalisti un incubo. L'idea è venuta a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 organizzate con Milano. Il progetto del nuovo carosello, che avrà un costo di circa 100 milioni, collegherà tre delle aree più spettacolari delle Alpi: il Sella Ronda, che unisce le valli ladine tra Trentino Alto Adige e Veneto, le zone di Cortina d'Ampezzo e il Giro della Grande Guerra, che sopra Alleghe collega le cime di Civetta, Pelmo e Tofana. Così si deturpa il paesaggio, dicono gli ambientalisti. Replica Valeria Ghezzi, presidente nazionale esercenti funivie. Seggiovia è il mezzo di trasporto più sostenibile che c'è, e che gli ambientalisti dovrebbero essere contenti perché togliamo il trasporto su gomma e andiamo a energia rinnovabile. Insomma, si decida e si faccia presto, magari prima che si sciolgano tutti i ghiacciai. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, direi che con questa notizia, in previsione appunto di queste Olimpiadi, ci fermiamo brevemente per aggiornare chi si sta muovendo su strada e autostrada, in modo da tornare tra pochissimo per cominciare ad approfondire i vari argomenti in primissimo piano. Per i vostri commenti vi ricordo 349-238-6666, che è il numero per sms e whatsapp, per i vostri commenti via sms e whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo vari messaggi di origine politica, leggerò qualcuno tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti sempre ricchissimi, dite la verità, di informazioni, di sintesi della giornata, di aggiornamenti in diretta, dei vostri commenti anche tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, per non dire poi degli approfondimenti, per chiarire alcuni argomenti da trattare poi nel corso della puntata con gli ospiti. Sempre Roberto Giordano con voi, anche in questa prima settimana del nuovo anno, sempre con Effetto Notte fedelmente dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda i vostri commenti, di natura politica, per esempio Giorgio sulla questione del referendum contro il taglio dei parlamentari, in sintesi è questo, dice: in politica tutto è variabile, settembre 2019 insegna 5 Stelle mai con il PD, PD mai con i 5 Stelle, poi la Lega perché dovrebbe essere diversa, tutti che dicono in realtà mai e poi tutti che si mettono insieme, naturalmente per anche questioni diciamo di legge elettorale, del fatto che dopo il giorno dopo le elezioni non ci sia una maggioranza che possa governare. Poi Christian dice: come al solito i politici usano il parco buoi degli elettori per i propri tornaconti di bottega, ammantandoli di un'aura di nobile idealità. Pietro invece scrive: nulla di nuovo all'orizzonte, la Lega non tradisce la sua vera natura, mentre Annibale sottolinea che il voto dei parlamentari per il referendum è trasversale. E proprio di questo parleremo tra pochissimo. Intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, ricordatevi alle 21, quali sono i fatti principali della giornata. Per l'appunto il taglio dei parlamentari, con colpo di scena ieri, colpo di scena oggi, che si annullano a vicenda, anzi poi il risultato definitivo è quello di oggi, di cui parleremo tra pochissimo. Le crisi internazionali, Libia e Iran al centro del vertice dei ministri dell'Unione Europea, mentre gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni dure nei confronti dell'Iran, ne parleremo poi nel corso della puntata, così come anche della vicenda dell'aereo ucraino precipitato in Iran, con tutte le accuse da parte di buona parte del mondo occidentale occidentale nei confronti dell'Iran, la Russia che invece dice aspettiamo di avere delle prove certe, e poi l'Iran che invita sia gli esperti della Boeing sia quelli ucraini a indagare. Stasera c'è stato l'accesso alle scatole nere, almeno c'è stata la dichiarazione di questo tipo. Poi i viadotti sulle autostrade italiane, 200 gallerie non rispettano le norme di legge, ma la ministra De Micheli rassicura, e per le Olimpiadi invernali 2026 avete sentito questa ipotesi di una rete di funivie sulle Dolomiti con le immancabili polemiche. Il taglio dei parlamentari è sempre stata una priorità per il Movimento 5 Stelle e uno dei motivi per cui 11 milioni di italiani ci hanno dato fiducia mandandoci al governo. Per questo noi, anche in caso di referendum, siamo sicuri che saranno ancora al nostro fianco. Anche in caso di referendum, dice Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, il referendum per il quale erano state raccolte nelle settimane scorse tra i vari parlamentari dei vari partiti, come anche ricordava naturalmente qualche ascoltatore, le firme necessarie per presentare in Cassazione questo referendum, per bloccare, in sintesi, cosa serve questo referendum? Per bloccare la riforma costituzionale che è stata approvata nei mesi scorsi, che procederebbe appunto al taglio dei parlamentari, alla decurtazione del numero di deputati e senatori. Ieri tuttavia c'è stato un colpo di scena, improvvisamente sembrava che mancassero delle firme, perché si erano in realtà tirati indietro alcuni parlamentari tra il Forza Italia e il Partito Democratico, e quindi sembrava che il tutto fosse improvvisamente sospeso. Altro colpo di scena invece oggi: le firme sono state raggiunte, anzi superate, sono state depositate in Cassazione 71 firme, con però l'aiuto sostanzioso di esponenti della Lega, la Lega che in realtà aveva votato precedentemente per il taglio dei parlamentari. Allora subito coinvolgo la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. Eccoci qui, bentornata. Allora farei sentire subito Cangini di Forza Italia, che è stato il primo promotore di questo referendum. Sentiamo cosa dice oggi. Mi rendo perfettamente conto di quanto possa essere impopolare, però intanto mi sembra corretto che una riforma che riguarda la Costituzione, la qualità della democrazia, la democrazia rappresentativa, quindi il ruolo del Parlamento e anche il ruolo dei partiti, venga valutata dall'opinione pubblica e su questa ci sia un voto popolare. E mi sorprende francamente che le forze che più hanno esaltato il popolo, lo strumento referendario, non siano state tra i promotori, e parlo in modo particolare del Movimento 5 Stelle. Quindi Cangini dice: in realtà lo faccio, adesso sentiamo anche l'altro passaggio dove lo specifica, dice: io lo faccio per una questione di principio, perché un argomento così importante va comunque sottoposto anche al vaglio degli elettori, non lo faccio per un tornaconto. Sentiamo anche questo passaggio. Dal mio punto di vista l'obiettivo è esclusivamente di merito, sostanzialmente me ne infischio delle possibili conseguenze che questo referendum potrebbe avere sul quadro politico, sul referendum di Calderoli eccetera, mi interessa invece che si possa svolgere nel paese quel dibattito appunto sulla democrazia, non sulle poltrone, sulla democrazia, che obiettivamente non è stato possibile svolgere nelle aule parlamentari per paura dell'impopolarità. Quindi lui dice: non ho paura dell'impopolarità, e poi per me è una questione proprio di merito, me ne infischio poi del fatto delle poltrone. Sarà effettivamente così? Non vogliamo mica fare naturalmente l'analisi del sangue o delle intenzioni a Cangini, Barbara, però ai molti risulta così, un po', no, al di là che sia giusto o non giusto questo referendum. Ma in realtà la cosa divertente, se possiamo usare questo aggettivo, è che abbiamo visto che a determinare la mancanza delle firme ieri erano stati un gruppo di senatori di Forza Italia, e poi il promotore del referendum è un senatore di Forza Italia, e quindi il partito, diciamo, di Forza Italia è spaccato. La Lega, che come appunto tu ricordavi ha sempre votato a favore del taglio dei parlamentari, e adesso è invece andata oggi in soccorso per raggiungere le firme necessarie al referendum. Quindi mi sembra che ci siano tante partite all'interno di questa scelta. Però oggi, Barbara, Salvini alla fine lo ha ammesso. Vado a riprendere una dichiarazione che ha fatto, perché dunque l'audio poi non si è trovato, ma insomma ha detto ai giornalisti che gli hanno chiesto: ma questa mossa dei leghisti di sostenere questo referendum può essere un modo per anticipare le elezioni? E lui dice: sì, abbiamo dato un contributo per avvicinare la data delle elezioni, perché prima va a casa questo governo di incapaci e meglio è, non per Salvini ma per l'Italia. Quindi è stata una mossa, diciamo così, strumentale? Sì, se ti ricordi ne parlavamo anche ieri. Infatti, e anche ieri avevo anche anticipato che la Lega probabilmente sarebbe arrivata in soccorso. È vero, l'anticipazione globale universale, tu l'hai detto, no, in esclusiva qui. Perché l'interesse della Lega è quello di andare a votare il prima possibile, come sappiamo, e il poter avere un Parlamento di nuovo con 1000 parlamentari, perché questa è la verità vera, cioè questo referendum di fatto viene sponsorizzato per far sì che si vada a votare con lo stesso numero di parlamentari, cioè per evitare la riforma. In sostanza è un trucco per evitare la riforma, perché la stessa Lega avrebbe dei problemi con il taglio dei parlamentari, nel senso che pur raggiungendo un risultato magari doppio rispetto a quello delle precedenti elezioni, porterebbe come numero, voglio dire, in valori assoluti, lo stesso numero di parlamentari che oggi, ma ce ne sono parecchi in fila di amministratori e di nuovi entrati che aspettano anche loro di fare ingresso, di poter ottenere uno scranno parlamentare, e quindi insomma fa comodo a tutti il fatto che si rimanga così come siamo e che questa riforma non entri in vigore per la prossima legislatura. Ma quindi rimangono sulle barricate solo quelli del Movimento 5 Stelle, a parte qualcuno che ha firmato, dice questo ascoltatore, gli unici seri rimangono sempre 5 Stelle, gli altri sono il vecchio, la Lega sapeva benissimo, scrive, che avrebbe fatto la contromossa, la prima volta ha votato per la riduzione perché doveva salvare la faccia, adesso la gente è più distratta, ma questo contributo che dice Salvini che ha voluto dare sostenendo il referendum alle elezioni anticipate è perché questo mette ancora più, diciamo, in maretta la maggioranza, crea destabilizzazione? No, Roberta, non è questo, è proprio un fatto tecnico, cioè nel momento in cui noi dovremmo votare per questo referendum, diciamo tra aprile, maggio, giugno, no? Giugno si dovrebbe tenere il referendum. E se si terrà il referendum, la stragrande maggioranza probabilmente degli italiani voterà in favore della riforma, e quindi di fatto la riforma entrerebbe in vigore. Per evitare che entri in vigore, per evitare che entri in vigore il taglio dei parlamentari, molti in Parlamento, tra le forze politiche, a partire da Matteo Salvini, scommettono che salti la maggioranza, cioè che a quel punto sia un vabbè, tanto male per male, a questo punto almeno ci conserviamo i posti. Anche i partiti, ripeto, l'ho detto anche ieri, quindi si sono palesemente contraddetti, insomma, anche i leghisti in questo senso, no? Nel senso, sì, cioè l'interesse non c'entra niente, quello che vorrei far capire ai nostri ascoltatori è che non c'entra niente la riforma, il merito, sia al taglio o non al taglio, nella gran parte delle persone che hanno sottoscritto questo referendum, che l'hanno deciso all'ultimo momento, che hanno ritirato le firme, non è in relazione al referendum, al merito del quesito, cioè la riforma costituzionale, ma è un motivo di opportunismo politico, in un senso o nell'altro, cioè se no la Lega l'avrebbe potuto sottoscrivere prima, no, il referendum. Però a proposito dell'esito, che tutti dicono appunto quasi certamente le italiane e gli italiani voteranno a favore del taglio dei parlamentari e quindi in qualche modo inficiando questo referendum, Giachetti di Italia Viva non è d'accordo, sentiamolo. La domanda che ci dobbiamo fare è: chi ha paura del referendum? Chi ha paura che il popolo italiano possa esprimersi su una delle leggi più importanti che riguardano il nostro paese, cioè una riforma costituzionale? E quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: ma perché si ha paura che il popolo si pronunci? La domanda è ancora più, diciamo, pertinente rispetto a quello che tutti dicono essere un esito scontato. Si dice sostanzialmente che il 90% dei cittadini italiani è a favore del taglio dei parlamentari. Io penso che se noi avessimo 3 mesi di campagna elettorale nei quali ciascuno può esprimere le proprie ragioni, certamente, diciamo, questi numeri cambierebbero. Bah, sarebbe interessante vedere, ma non ci sarà probabilmente tempo di fare questa campagna per spiegare ai cittadini e cittadine i vantaggi di non tagliare i parlamentari. Comunque, Barbara, passando ad altro e vedendo un po' poi come andrà a finire questa storia, parliamo del malessere nel Movimento 5 Stelle. Allora, ci sono state delle espulsioni in questi giorni, ci sono state delle defezioni, dei transfughi che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle, già in parte ieri ne parlavamo, che sono andati nel gruppo misto. Ieri però è stato presentato anche all'Assemblea dei Senatori del Movimento 5 Stelle un documento in cui si chiede più collegialità dal punto di vista della leadership, della guida del movimento. Quindi, insomma, diciamo, è come dire, Di Maio non può essere un uomo solo al comando, e dall'altra anche che ci sia il controllo della piattaforma Rousseau da parte del Movimento 5 Stelle nel suo complesso. Oggi, sul giornale che è considerato da sempre molto vicino al Movimento 5 Stelle, che è il Fatto Quotidiano ha titolato Di Maio vicino a lasciare la guida dei 5 Stelle. Di Maio ha smentito dicendo che sono voci velenose che vengono messe in giro così ad arte, e Bonafede, ministro della giustizia in quota 5 Stelle, è intervenuto poco fa con una dichiarazione, ha detto: chi attacca Luigi Di Maio attacca il movimento, il nostro capo politico Luigi Di Maio merita rispetto, vari punti esclamativi, chi lo attacca oltre a dimostrare evidente miopia forse dimentica il percorso fatto dal movimento da quando Luigi è stato eletto dalla rete, una strada che ci ha portato ad avere la straordinaria occasione di dare concretezza a tutte quelle idee, valori che sono stati sempre nel DNA del Movimento 5 Stelle. Lo scrive su Facebook Bonafede. Le persone che adesso criticano qualsiasi regola che si erano impegnati a rispettare in campagna elettorale, dice Bonafede, dovrebbero soltanto capire che i loro attacchi pretestuosi fanno male prima di tutto al Movimento. Abbiamo tutti la possibilità di risolvere finalmente i problemi del Paese. È per questo, soltanto per questo, che è nato il Movimento 5 Stelle. A Luigi va tutto il nostro sostegno, dice Bonafede. Come stanno le cose, Barbara, a questo punto, tu che sei addentro le segrete stanze? Allora, escludo che il Fatto Quotidiano, che come dici tu, insomma, è molto vicino al movimento, a partire dal suo direttore Travaglio, possa aver, come dire, detto delle corbellerie, secondo te? Sì, non ha detto una bufala. No, le fonti sicuramente ci sono e sono accreditate. La verità vera è chi ha voluto che questa notizia uscisse, cioè, se volessi essere un po' maliziosa, potrei pensare che a volerlo sia stato proprio Di Maio, perché Di Maio, che è messo sotto processo dai suoi parlamentari, sostanzialmente, come tu ricordavi, con quel documento che poi è stato sottoscritto, se non sbaglio, solo da 3 senatori, ma in realtà il malessere è molto più vasto, e anche all'interno del governo, anche dei ministri che un tempo erano ritenuti di maiani, no? A partire da Patuanelli e lo stesso Bonafede, che sono molto più vicini invece a Conte che a Di Maio, far uscire una notizia del genere e costringere, come dire, la levata di scudi a sostegno di Di Maio potrebbe essere stata una mossa strategica, tu dici, furba, direi più che strategica, furba, per come dire, per evitare di doversi fare da parte. Come sei maliziosa, però, insomma, cioè, sono mosse che possono durare qualche settimana, insomma, poi a un certo punto bisogna decidere. Le difficoltà di Di Maio sono oggettive e sono dovute principalmente, secondo me, come per qualunque leader politico, alle sue ripetute sconfitte politiche. Cioè, da quando Di Maio è alla guida del movimento, il Movimento 5 Stelle nelle varie tornate elettorali ha sempre perso voti, sì. E quindi è evidente che in questi casi, al di là della responsabilità poi di un leader, perché cioè, può anche non essere responsabile un leader politico però ne risponde, è il primo a pagarne le conseguenze. Chiaro. Barbara, per chiudere, chi potrebbe mai sostituire eventualmente il Movimento 5 Stelle e Di Maio? Nessuno. Il problema vero del Movimento 5 Stelle, che poi vorrei fare un paragone, che è poi anche il problema del Partito Democratico, cioè non ci sono leader né nel Partito Democratico né nel Movimento 5 Stelle, quindi l'unico leader che mi viene in mente è Beppe Grillo, che però si è allontanato, cioè o Grillo torna in campo pienamente, cioè prende in mano lui lo scettro e via, sì, o se no, sì, riprendendosi lo scettro che nessuno gli aveva sottratto, e lui che era lui allontanato, indietro. oppure non vedo alternative. Ed è la stessa cosa, cioè dopo le elezioni in Emilia, se il PD dovesse perdere, inevitabilmente si porrà la questione delle anche dimissioni di Zingaretti. Però chi lo sostituisce? Beh, chi lo sostituisce? Vabbè. Aspetteremo il 26 gennaio. Nel frattempo, cara Barbara Femeri, buon fine settimana a te. E buon fine settimana a tutti voi. Grazie, ciao Barbara. Qui ci prendiamo una pausa di riflessione. Intanto vedo un aggiornamento per quanto riguarda la crisi Stati Uniti-Iran. Trump, presidente americano, dice il generale iraniano Soleimani, che è stato ucciso appunto dagli americani, aveva nel mirino, dice Trump, 4 ambasciate americane. Lo ha detto in un'intervista a Fox News. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, allora siete al posto giusto, nel momento giusto, se volete, con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, anche in questo ultimo giorno della settimana, in questa sfida nel raccontarvi, diciamo, in meno di un'ora, quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, cercando di approfondire, di chiarire ulteriormente alcuni argomenti con gli ospiti. Abbiamo scandagliato un po' gli argomenti emergenti delle ultime ore della politica italiana, adesso tra poco ci allargheremo invece ad altri orizzonti, ma per i vostri messaggi, sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Dice per esempio Francesco, sempre sulla politica italiana, non so se è così anche da altre parti, però questi giochini sui referendum, sul numero dei parlamentari, sull'abolizione della quota proporzionale, mi stanno allontanando sempre più dalla politica, dice, una grande nausea verso le istituzioni, so che è sbagliato ma non andrò a votare. È sbagliato, Francesco, comunque libero naturalmente di fare come credi. E poi invece un altro, Claudio, dice Grillo a capo dei 5 Stelle, dicendo che appunto oltre Di Maio forse in questo momento non c'è un'alternativa, dice torna allora alla politica del vaffa, no grazie, ne ho avuto abbastanza. Dicevo adesso, se avete ripreso ad ascoltare puntualmente Effetto Notte anche in questo nuovo anno, ormai sapete più o meno tutto delle due principali crisi internazionali, quella che riguarda la Libia e l'altra tra Iran e Stati Uniti, ma adesso ve la riepilogo brevemente. Venerdì scorso in Iraq c'è stato un blitz americano per uccidere, che ha avuto appunto l'esito poi effettivo, il potente generale iraniano Soleimani. L'Iran ha giurato subito vendetta. La reazione a due giorni fa è partita questa rappresaglia attraverso dei missili sparati di notte su delle basi americane in Iraq. Però abbiamo detto che è stata una reazione, per modo di dire, perché è stata telefonata tra virgolette, cioè l'Iran ha avvisato Baghdad di questi missili che sarebbero partiti, Baghdad ha avvisato gli Stati Uniti, quindi insomma è stata un po', diciamo, una messa in scena. Sembra che non abbia fatto danni. Trump assicura che l'Iran, assicurato ieri in questo discorso alla nazione, non avrà mai l'arma nucleare finché ci sarò io come presidente americano. Poi però ha detto vogliamo noi americani abbracciare la pace con l'Iran. L'Iran ha detto anche noi non vogliamo la guerra, però cerchiamo, gli Stati Uniti devono rientrare nell'accordo nucleare che era stato suggellato da Obama. Ma qual è, che cos'è che irrompe però in questa crisi, e bisogna capire se effettivamente c'è un nesso oppure no? È appunto in questo scenario già molto teso di crisi internazionale la questione dell'aereo iraniano che è precipitato, l'ucraino scusate, che è precipitato in Iran mercoledì, proprio più o meno in coincidenza di questi missili lanciati da Teheran, in realtà forse qualche ora dopo, però più che un elemento si tratta di 176 morti che ci sono stati, vittime dell'aereo ucraino precipitato, pare appunto in questi stessi frangenti della rappresaglia. Da diversi giorni gli Stati Uniti accusano l'Iran di averlo centrato, anche magari involontariamente, questo aereo con i missili iraniani. Ieri sono accodate anche il Canada, la Gran Bretagna, oggi anche l'Olanda, e la NATO stessa con il segretario generale Stoltenberg ha detto noi crediamo effettivamente ci sono le prove che sono stati dei missili iraniani ad abbattere questo aereo. La Russia dice no, aspettiamo, vediamo se ci sono effettivamente le prove, e nel frattempo l'Iran nega ogni responsabilità e ha invitato sia gli esperti dell'azienda produttrice, il gruppo che costruisce il Boeing americano, e anche gli esperti ucraini a analizzare le scatole nere che finora non aveva voluto concedere. Allora ne voglio parlare con un esperto del del CESI, che è il Centro Studi Internazionali, l'analista di difesa e sicurezza del CESI, Paolo Crippa. Buonasera, dottor Crippa. Buonasera a voi. Che cosa pensa di tutta questa vicenda così oscura? È una questione strumentale, una questione sempre di attacchi reciproci, chi vuole umiliare da una parte l'Iran invece che vuole declinare ogni responsabilità e magari invece è stato davvero un missile. Cosa vede lei? Guardi, restano importanti luci ed ombre, perché effettivamente in questo momento non abbiamo elementi a sufficienza noi pubblico per giudicare, anche noi esperti per giudicare cosa può essere successo con chiarezza. La palla rimane all'intelligence. Certo sta che da una parte l'informazione viene utilizzata a fini strumentali politici e dall'altra parte ugualmente. Gli Stati Uniti sono stati i primi ad arrivare dicendo la nostra intelligence ci comunica che si è trattato di un missile iraniano probabilmente lanciato per errore. Subito dopo è stata rimbalzata questa informazione da altre fonti di intelligence di paesi NATO, comunque strettamente legati agli Stati Uniti, come il Canada e l'Inghilterra, che entrambi fanno parte dell'alleanza di intelligence Five Eyes, di intelligence sharing. Ovviamente anche la NATO si è accodata, poi l'Olanda, la Svezia e tutti gli altri. Dall'altra parte abbiamo invece due attori completamente che la vedono al contrario, l'Iran e la Russia, che anche loro strumentalmente utilizzano questo momento di incertezza dove non c'è appunto una prova schiacciante su quello che è successo per fare il loro gioco politico-geopolitico e utilizzarla per le proprie pressioni politiche, a proprio favore. Sicuramente l'Iran, mi viene da dire, è impossibile che ammetterà la propria colpevolezza, nel senso che in un momento così delicato per l'Iran come quello in cui si trova adesso di de-escalation, chiamiamola così, delle tensioni che sono in corso con gli Stati Uniti, ammettere che si è trattato di un errore che ha coinvolto 176 vittime sia per l'opinione pubblica internazionale che per l'opinione diplomatica internazionale, ma anche per l'opinione proprio pubblica interna iraniana, nonostante il regime, diciamo, di oscurantismo che vige in Iran, sarebbe una missione di colpa, un danno d'immagine devastante, per cui ovviamente l'Iran nega. Dall'altra qualcuno dice maliziosamente, visto che l'aereo era un Boeing e ha avuto già altri problemi, il 737 eccetera eccetera, questo vabbè è un modello diverso e chiaramente gli americani subito buttano la palla invece in campo iraniano. Però al di là di questo, Crippa, il passo ulteriore è che l'Iran appunto ha invitato sia gli esperti della Boeing sia gli ucraini a valutare, ad analizzare le scatole nere, e ho visto poco fa che un team di 50 investigatori ucraini è giunto a Teheran sul luogo del disastro e analizzerà insieme agli iraniani queste scatole nere dell'aereo, un'operazione che, leggo, potrebbe durare 2 mesi, però è già un primo passo questo per cercare di... Sì, assolutamente, cioè nel senso io e tutti ci accodiamo al monito del premier Justin Trudeau che le indagini siano fatte in maniera rapida, efficace, ma soprattutto trasparente. C'è un problema di trasparenza, le indagini verranno sicuramente svolte, ma il diavolo sta nei dettagli, vediamo come saranno svolte e soprattutto come verranno coinvolti i partner internazionali, cioè valutatori ucraini, gli esperti francesi o i responsabili della valutazione tecnica della Boeing, dipende come verranno coinvolti, cioè se l'indagine verrà condotta inter pares tra tutti in maniera trasparente con degli standard internazionali è un conto, se questi diventeranno semplici spettatori di un'indagine coinvolta, gestita e coordinata esclusivamente da personale iraniano a cui loro si potranno approcciare semplicemente come spettatori è un altro discorso di affidabilità e di chiarezza. Chiaro. Per cui rimangono anche qui delle perplessità. Un dato banale, anche abbastanza una news di ieri: subito dopo che l'aereo è precipitato, la mattina stessa, verso mezzogiorno, tecnici iraniani con delle banali ruspe e dei bulldozer hanno ripulito la scena, diciamo, dello schianto, di tutti i detriti e dei resti della carlinga. In realtà era interessantissimo, se non fondamentale, per i tecnici valutatori vedere la posizione sul suolo dei detriti in base a come erano disposti per vedere effettivamente se si potesse parlare di un'esplosione in volo, di un guasto o di un missile. Chiarissimo, dottor Crippa. Effettivamente adesso vediamo, come dice lei, se ci sarà trasparenza nelle indagini o meno. Grazie a Paolo Crippa del CESI. Grazie mille a voi, buona continuazione. Grazie a lei. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie, sempre Roberta Giordano con voi. Mi ha raggiunta Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Perché adesso parliamo di questo vertice dell'esito, il vertice straordinario dell'Unione Europea su Libia, Iran e Iraq. Abbiamo appena parlato appunto di questa crisi internazionale, particolarmente concentrati sulla questione dell'aereo. Che cosa è emerso in questo vertice, Sergio, che poi è stato voluto dall'alto rappresentante dell'Unione Europea, no? Borrell. Ma ad essere sinceri, poco più di quello che non è emerso l'altro ieri, quando si sono trovati quattro ministri europei di Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna, sempre con lo stesso Borrell. Bisogna dire che l'Europa sta giocando una carta, l'unica carta possibile, che è quella diplomatica, della mediazione, quindi continua a chiedere un cessate il fuoco in Libia, una de-escalation in Iran, un embargo sulla vendita di armi in Libia. Insomma, sono concetti che vanno avanti da un po' di giorni e che vengono ripetuti ormai, a dire la verità, un po' fino alla nausea. Se vogliamo vedere l'unico atto concreto che l'Europa sta cercando di mettere in campo è questa famosa conferenza di Berlino sulla Libia. Quando dovrebbe esserci? Anche lì, su questo bisogna dire che il ministro degli esteri italiano Di Maio è abbastanza esplicito nel dire che occorre fissare una data adesso, anche perché se ne parla da diverse settimane, non c'è effettivamente ancora una data, anche perché mentre l'Europa parla, sul campo Haftar continua la sua offensiva. È notizia di oggi, ci sarebbero già 3 vittime e 6 feriti tra i militari turchi mandati da Erdogan, dal presidente turco Erdogan in Libia. A sostenere Serraj, il premier riconosciuto Serraj, a livello internazionale, il quale ha aderito a questo cessate il fuoco chiesto da Turchia e Russia, mentre il generale Haftar non ne vuole sapere. Haftar, dopo Sirte, sta ormai puntando su Misurata. Ricordiamo anche che se Haftar cattura Misurata, che è l'altro grande bastione pro Serraj, ricordiamo anche che Serraj è il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, Haftar non lo è. Se riesce a conquistare Misurata, effettivamente la strada per Tripoli è abbastanza spianata, quindi sta giocando contro il tempo nelle sue carte, insomma, per cercare di arrivare prima che, insomma, le potenze e non metto tra le potenze solo Europa, metto anche Russia e Turchia, sono i veri attori in gioco in questo momento in Libia. La Libia. E ricordiamo anche che c'è stata una richiesta di cessate il fuoco da parte di Erdogan e Putin un paio di giorni fa. Allora, prima che questa azione diplomatica riesca poi effettivamente, se riuscirà, a concretizzarsi. Quindi c'è un po' di, come dire, di distanza tra un'Europa che continua a parlare e a riunirsi e poi quello che accade davvero sul campo. La necessità poi di azioni concrete. Grazie Sergio. Grazie, Nava. Ciao. Ciao caro Sergio. Adesso vi faccio sentire l'anticipo del reportage che andrà in onda qui su Radio 24 domenica alle 8:15, a 20 anni dalla morte di Bettino Craxi, ricordato dal film Amamet di Gianni Amelio, che è uscito ieri nelle sale. 100 giorni. Amamet è un punto della cartina geografica del Nord Africa, uno splendido complesso residenziale Villa Julien, posto in uno dei luoghi più belli della Tunisia, diventa l'ultimo rifugio di Bettino Craxi, il capolinea della vita di un latitante, lasciato solo da tutti tranne che dai pochi fedelissimi, lui che era stato uno degli uomini più potenti ed influenti della Prima Repubblica. Un abbraccio! Gli ultimi 6 mesi della sua storia, con straordinari successi politici e tonfi giudiziari clamorosi, diventano il punto nodale dell'ultimo film di Gianni Amelio, interpretato in modo sublime da Pierfrancesco Favino. La pellicola, ben strutturata sul piano della sceneggiatura, delle riprese, della fotografia, si basa su testimonianze reali, ma non è una cronaca fedele degli ultimi mesi nella vita di Bettino Craxi. Neppure possiamo considerarlo un pamphlet militante. Non può essere tutto questo, perché il corso del leader socialista divide ancora oggi il nostro paese sul piano umano, politico e giudiziario. Il film esce nel ventennale della morte di Craxi, avvenuta appunto ad Amamet il 19 gennaio 2000 e nei giorni in cui si celebrano da più parti riabilitazioni della sua figura. In molti chiedono ad esempio di ristabilire la verità. Lo fa da anni la figlia Stefania Craxi, lo fanno altri anche per ragioni politiche o speculative, ma le verità che emergono anche nel film sono essenzialmente 3. Politica, giudiziaria, umana, tutto si mischia e alla fine resta soltanto la solitudine di un uomo tanto potente quanto fragile. Daniele Piacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, stavo leggendo qualche vostro messaggio ancora sulla politica. Paola fa una proposta che effettivamente è anche quello che penso anch'io. La prossima volta ne parliamo con Barbara Fiammeri. Ha detto: proposta per mantenere la rappresentanza in Parlamento, lasciare l'attuale numero di parlamentari e ridurne lo stipendio. È una cosa che volevo proporre anch'io, volevo sapere cosa ne pensava Barbara Fiammeri. Il tempo stringeva, la prossima volta volentieri, cara Paola. Adesso invece abbiamo un Paolo, tra pochissimo, il nostro Paolo Corazzon. Here comes the sun, and I say it's alright. Tanto, tanto sole vogliamo, caro Paolo Corazzon. Benvenuto, buonasera, bentornato. Roberta, buon anno a te, caro Paolo. Grazie, tanti auguri a tutti. Ma guarda che il sole ci sarà e come, anzi ti dirò, secondo il mio punto di vista, ma non è solo il mio, il problema è che ci sarà fin troppo, perché insomma sai che in molte zone d'Italia stiamo le polveri sottili, anche da noi a Milano un disastro. Sì, lo so. Esatto, quindi avremo bisogno di un po' di pioggia. In fin dei conti è da Natale che grandi cose non stanno succedendo e guarda, ti anticipo che fino al 20 del mese, quindi ancora per tutta la prossima settimana, grandi perturbazioni non arriveranno sull'Italia. L'ultima decade di gennaio probabilmente sarà più movimentata, ci riporterà un po' di pioggia, ma a questo punto speriamo, perché davvero sotto molti punti di vista ne abbiamo bisogno. Fatto sta che questo weekend sarà quindi bello, all'insegna del sole quasi in tutta Italia, nel senso che un po' di nuvolette di passaggio al centro-sud più che altro ci saranno, comunque nuvole innocue, non succede niente, e in pianura padana però durante il weekend ricominciano a formarsi le nebbie dopo la tregua di oggi. Anche queste nebbie sono segnale che l'aria è molto sporca al nord Italia. Teniamo duro e perché appunto anche tutta sera prossima nulla si muove, diciamo. Ma perché la nebbia è sempre sintomo comunque di inquinamento, oppure la nebbia che trattiene la propria umidità? Allora, non necessariamente se c'è nebbia l'aria è inquinata, però in questo frangente lo è, nel senso che si forma questa nebbia proprio sulle particelle di inquinamento che sono sospese nell'aria. Quindi è nebbia sporca. Addirittura qualche giorno fa si è verificato alcun caso di alcuni casi sono in Italia di neve chimica. Sono nevicate molto localizzate che sono legate proprio all'inquinamento e sulle particelle di inquinanti condensa la neve che poi precipita a terra. Quindi abbiamo aria molto sporca e questo facilita la formazione della nebbia. Quindi non per forza la nebbia è sempre sporca, ma questa lo è, purtroppo lo è. Santi Numi, benvenga la pioggia, ma nei giorni infrasettimanali, almeno lavorativi, diciamo. Poi quando uno invece si rilassa. Un po' di sole. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao. Grazie, caro Paolo. A te, buon tempo a tutti. Ciao ciao. E ci sentiamo, come sapete, sempre brevemente alle 22.